Una delle caratteristiche che distingue il cristiano dall'incredulo o dal religioso formalista è la conoscenza. Infatti, proprio perché chi ha posto fede in Cristo ha ricevuto la mente di Cristo e la luce dello Spirito Santo, egli è in grado di distinguere il vero bene dal vero male e per questo compie azioni perché sa che sono da compiere, mentre ne rifiuta altre perché sono da rifiutare. Sembra una riflessione di poca importanza, ma quasi la totalità delle persone hanno nei confronti della morale una totale ignoranza, limitandosi generalmente a fare quello che tutti fanno. Prova ne è che quando cambia un'abitudine morale giusta, se non si hanno dei principi base di etica, si segue l'andazzo del mondo senza porsi troppi problemi. Così pure è della religione che si professa. Non ho ancora trovato un cattolico romano che sappia che il diavolo è in grado di compiere miracoli, o che sia conoscenza che il cattolicesimo romano ha tolto uno dei 10 comandamenti e per non alterarne il numero ha diviso l'ultimo in due. E se anche lo trovassi, rimarrebbe un'eccezione. L'ignoranza di chi segue la religione del cattolicesimo romano è generalmente abissale, e questo anche perché le autorità religiose insegnano che il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti sono la coscienza dei fedeli. Per questo, ai seguaci della religione cattolica romana viene chiesto un'irrevocabile adesione di fede. 88. Dato che l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio è stato affidato al solo magistero della Chiesa, al Papa e ai Vescovi in comunione con lui. 100. Proprio perché chi ha creduto in Cristo quale unico Salvatore e Signore della sua vita è stato liberato da ogni forma religiosa formalista, sapendo che i suoi peccati sono stati già perdonati e per questo possiede ora la vita eterna, ha fatto di Cristo la sua morale e la sua sapienza. Per quanto sembra strano, pochi religiosi cattolici sono a conoscenza dell'ordine di Gesù di attingere la propria conoscenza direttamente da Cristo. In merito ai religiosi suoi contemporanei insegnanti della parola di Dio, Gesù disse: amano i postid, onore nei conviti e i primi posti nelle sinagoghe, e anche i saluti nelle piazze, e di sentirsi chiamare dagli uomini rabbi, rabbi. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Matteo 23.1.10. Perché nel cattolicesimo romano vi sono delle guide, dei maestri e dei padri dei quali uno è il Santo Padre. Perché il cattolicesimo romano ritiene di essere la coscienza e la sapienza dei fedeli in Cristo? Se il religioso formalista non si occupa di conoscere a fondo la fede che professa, la vita del credente in Cristo è caratterizzata a meno, o deve essere caratterizzata a meno, da una profonda conoscenza. Infatti, uno dei verbi più frequenti usati dagli apostoli è sapere o conoscere. Essi sono riferiti ad una comprensione della piena realtà o dell'oggetto al quale essa intende. Così, assieme agli apostoli, il credente sa che è nato di nuovo, ma possiede in sé un conflitto spirituale tra le inclinazioni naturali sbagliate e i desideri dello spirito. Romani 7:14. Sa che tutto il mondo fino ad ora geme insieme ed è in travaglio ed aspetta di essere liberato dalla corruzione per entrare nella libertà dei figli di Dio. Romani 8:19-22. Il credente sa pure che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Romani 8:28. Come sa che mentre dimora nel corpo è lontano dal Signore. 2 Corinzi 5:6. Forse l'apostolo che parla maggiormente della conoscenza del credente è Giovanni nelle sue lettere. In effetti Giovanni afferma che i credenti sanno di avere conosciuto Dio perché osservano i suoi comandamenti. 1 Giovanni 2:3. Sanno che quando Cristo sarà manifestato saranno simili a Lui. 3:2. Come sanno di essere passati dalla morte alla vita, perché amano i fratelli. 3:14. Inoltre, i credenti sanno di essere nella verità perché amano i figli di Dio. 3:19. Sanno di amare i figli di Dio perché osservano i suoi comandamenti. 5:2. E sanno che chi ha realizzato la nuova nascita non può perseverare nel peccato. 5.18. Questi sono solo alcuni aspetti che mettono in evidenza come la vita del cristiano sia e debba essere caratterizzata dalla conoscenza. Dono questo dato solo a quelli che possiedono lo Spirito Santo. Questa verità dovrebbero far riflettere coloro che leggono la parola di Dio e non la comprendono, o coloro che professano una fede senza conoscerne i contenuti. Per molto tempo mi sono chiesto il motivo per il quale la quasi totalità dei credenti cattolici romani ascoltano impassibili il messaggio del Vangelo, senza esserne minimamente toccati. La spiegazione è che per questi formalisti fare una cosa o farne un'altra è indifferente. Quando ero ragazzo era un peccato toccare l'ostia con le mani, mentre oggi la si prende liberamente in mano per portarsela alla bocca. Il religioso non fa caso a questi cambiamenti, ma una trasgressione alla legge di Dio, cioè il peccato o meno, non è condizionata dal tempo. Se l'adulterio, l'omicidio, l'avere delle immagini sacre, venerarle e rivolgere ad esse delle preghiere è sbagliato per sempre. Diversamente, o è cambiata la legge, o è cambiato l'uomo. Dato che la legge di Dio è sempre quella, gli uomini religiosi formalisti sono colpevoli di voler rimanere nell'ignoranza, dopo aver preso in esame la grazia data da Dio ai credenti di essere equipaggiati di un'ampia conoscenza in ogni settore della vita, fa un certo effetto la presa di coscienza che chi ha posto fede in Cristo non abbia imparato una delle cose più importanti per la sua vita cristiana, e cioè pregare. Infatti, dopo aver detto più volte nella lettera ai Romani che il credente conosce tante verità, Paolo fa la seguente constatazione in merito alla preghiera. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio. Romani 8.2-6.27. Molte volte l'Apostolo Paolo nelle sue lettere ha fatto distinzione tra sé e i lettori mediante i pronomi voi e io, come quando disse: per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Filippesi 1.2.1. Paolo non poteva dire ai filippesi, ai quali stava scrivendo, che per loro morire per Cristo era un guadagno, perché entrava in merito ad un aspetto cristiano molto personale e che lui non poteva conoscere. Poteva però dire di ritenerlo personalmente un grande. Ma, in merito alla preghiera, l'Apostolo Paolo non fa nessuna distinzione tra se stesso e i suoi lettori, e afferma che noi, cioè i credenti, meno non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. E, da notare che Paolo non afferma che i credenti non pregano, perché se non pregassero, non avrebbero neppure una fede in un Dio sovrano, e neppure l'Apostolo afferma che il credente non sa chiedere in preghiera, perché molte richieste vengono rivolte a Dio, ma Paolo è consapevole che né lui e neppure gli altri credenti sanno chiedere in preghiera come si conviene, cioè in modo appropriato. Più volte mi sono chiesto come mai l'Apostolo Paolo potesse rivolgere a se stesso e agli altri un'affermazione così categorica in merito alla preghiera, anche perché qualcuno potrebbe saper chiedere in preghiera come si conviene. Ho trovato la risposta in un episodio della vita di Gesù con i discepoli. Così leggiamo nel Vangelo di Luca. E avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. E come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. 11.1. Questa è l'unica volta descritta nei Vangeli dove i discepoli chiedono a Gesù di insegnare loro qualcosa. I discepoli non hanno mai chiesto come evangelizzare o insegnare, ma l'unica volta nella quale furono coscienti di non sapere qualcosa, questo era di non saper pregare come si conviene. Pregare in modo appropriato alle circostanze rimane per il credente la vera difficoltà del suo cammino cristiano, difficoltà che porterà fino alla tomba. Da un certo punto di vista, questa, per vari motivi, è la normale conseguenza del rapporto di una creatura con il suo creatore. Prima di tutto, la differenza tra la creatura e il creatore è abissale, per questo non vi può essere assolutamente un rapporto alla pari. rapporto che potrebbe instaurare una comunione tale da rendere in grado di chiedere ciò che è opportuno o conveniente. Inoltre, per poter chiedere in preghiera in modo adatto alle situazioni, bisognerebbe conoscere qualsiasi dettaglio delle circostanze e il futuro. Questo comporterebbe l'essere in possesso di un sapere illimitato, cioè l'essere onniscienti. È normale, quindi, che il credente non sappia come rivolgersi a Dio in preghiera con le dovute richieste. Questa presa di coscienza dovrebbe creare in lui il più completo sentimento di disperazione, di inadeguatezza e indegnità. Però, nella sua misericordia, il Dio Trino non ha lasciato l'uomo in balia della sua insufficienza, ma ha provveduto di dare al credente lo Spirito Santo affinché con l'intervento di questo egli possa rivolgere a Dio preghiere opportune. La persona dello Spirito Santo suscita nel credente dei desideri e delle attenzioni che non sono sempre esprimibili razionalmente e, condotto da questi impulsi divini, pur non sapendo sempre dove sarà condotto, egli compie la volontà di Dio per fede. Giovanni 3:3-5. Questi opposti tra conoscenza e ignoranza fanno parte della normale vita cristiana condotta dallo Spirito Santo e il credente che vive con questi contrari deve vedere in essi la via di Dio. Se il credente sapesse tutto, cadrebbe nell'orgoglio. Se non conoscesse, non sarebbe in grado di vivere nella verità. Così, mentre la conoscenza è indispensabile al credente per vivere umanamente, mediante l'ignoranza dei piani di Dio, il credente vive per fede. Dunque, chi afferma di non sapere pregare, intendendo che non è in grado di pregare in modo opportuno solo perché non ha raggiunto quella maturità spirituale necessaria, deve rivedere seriamente il suo errore. Mentre chi pensa di saper pregare perché ha una vita cristiana abbondante, è nell'errore più profondo. La Scrittura afferma che il credente non sa chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per lui con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori intercede per i santi secondo Dio. Il segreto di una vita cristiana abbondante sta nel verbo intercedere. Come Cristo intercede per i credenti, Romani 8.3.4, Ebrei 7.2.5, così la persona dello Spirito Santo intercede per coloro che hanno posto fede in Cristo quale unico Salvatore e Signore, affinché rinuncino alla testarda volontà umana per rivolgere preghiere efficaci. La disperazione più profonda che potrebbe cogliere il credente in merito alla preghiera si trasforma dunque nel più profondo abbandono allo Spirito Santo che lo porta alla presenza della Maestà Celeste. Non credo che si possa chiedere di più. Ottobre 2006. Ellero.